versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, grazie di essere con noi in ascolto oppure di scaricarci in podcast. Oggi lunedì 30 di giugno, sono le 16:35:43, siccome si festeggiano i cosiddetti protomartiri nel calendario liturgico, cioè i primi testimoni con lo sangue della fede. Allora, chi sono i protomartiri in Italia? Sono i contribuenti, visto che entrano in vigore una raffica di nuovi adempimenti, ne parleremo anche domani, ma in più trasmissioni di Radio 24 ne stiamo parlando. C'è il POS senza obblighi per artigiani, commercianti e professionisti per i pagamenti sopra i 30 euro. Che cos'è questo POS sopra i 30 euro? La mia opinione è che è una maniera, proprio perché è senza obblighi, attraverso cui lo Stato aggrava di oneri e delle commissioni di pagamento coloro che si metteranno in regola, ma non essendoci sanzione, quindi essendo un obbligo non obbligo, consentirà a tutti i cittadini che chiederanno a quel punto il POS, magari non l'avranno, di pensare che chi non ce l'abbia è un evasore, ovviamente, perché questo fa lo Stato, ci divide, è un evasore, non uno che sta risparmiando i costi di fronte al POS e sulle commissioni per ogni transazione, perché magari ha l'acqua alla gola, non ha domanda e la gente non lo paga, no, è un evasore, quindi tutti quanti ancora più convinti che naturalmente lo Stato abbia sempre ragione a dividerci. Domani entra in vigore anche l'aliquota ammazza risparmio del 26%, che la sinistra mette dicendo che bisogna diminuire il gap a sfavore della tassazione sul lavoro e sulle imprese, mentre invece sono avvantaggiate le cosiddette rendite da capitale. Peccato che si dimentichino che, non portandole in IRPEF insieme al reddito da lavoro, la rendita dei capitali è regressiva, cioè colpisce i piccoli risparmiatori a prescindere dal reddito che hanno, aumenta il vantaggio per i titoli pubblici e per alcuni prodotti postali più di quanto sia giusto, perché naturalmente così penalizza le aziende che devono cercare finanziamenti fuori dal circuito bancario che non gli danno i soldi, e invece in questa maniera sarà più complicato per le aziende. Inoltre i cosiddetti lordisti, cioè le imprese, le banche, non sono colpite perché hanno diritto a portare in una percentuale elevata i loro redditi da capitale nella dichiarazione dei redditi, cosa che invece le persone fisiche non possono fare. Per tutte queste ragioni in queste settimane noi abbiamo criticato, ma non abbiamo avuto risposta di nessun tipo nel merito rispetto a chi evidentemente alza l'aliquota, come hanno già l'alzata sul conto titoli, sui bolli e così via, semplicemente per prendere dove si può, e vedrete che ancora una volta porteranno a casa meno di quello che si aspettano, ovviamente. Allora, di fronte a giorni come questi e di fronte al fatto che stamattina, come se non bastasse, il vice ministro dell'economia alla stampa, Morando, ha dichiarato che 17 miliardi di tagli di spesa, beh, quelli lo Stato l'anno prossimo faticherà molto a farli, è un'opera improba, ha detto a proposito delle migliaia di società controllate dallo Stato a livello locale, se ne parla da anni, no? Ne abbiamo parlato nell'ultima trasmissione venerdì, ma ha detto: ma noi al tesoro non sappiamo neanche quanti sono di preciso, figuratevi se siamo in grado di dire se ha ragione o torto la Corte dei Conti, che dice che costano 26 miliardi di euro, 26 miliardi di euro l'anno. Come se non bastasse, ulteriormente Graziano Del Rio, il più stretto collaboratore del Presidente del Consiglio Renzi, ha approfittato del fatto che domani inizia il semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea per lanciare una bomba atomica, anche se la politica ha fatto finta di non sentire. Io da stamattina twitto, nell'intervista sul Corriere di Graziano Del Rio troverete l'annuncio che l'Italia ha un piano di cui non aveva mai parlato per affrontare l'eccesso di debito pubblico, le dismissioni di Stato, ma no, figuriamoci, si è visto dall'offerta di Fincantieri rifiutata dal mercato per un terzo, che i mercati non si fidano delle finte privatizzazioni all'italiana, bensì conferire decine di punti di PIL di attivi dello Stato che lo Stato non vuole o non può dismettere in un veicolo europeo, avvicinandoci così più in fretta al 60% di debito pubblico senza far nulla, perché quella società dovrebbe mutualizzare il nostro debito pubblico sopra il 60% e metterebbe titoli, tutti sarebbero contenti. Peccato che noi non ne sapevamo nulla, il governo non ne ha parlato nelle sue dichiarazioni di fiducia, non ne ha parlato mai Matteo Renzi né il ministro Padoan, non sappiamo se davvero questa sarà una proposta. Una cosa è sicura: in Europa di mutualizzazione del debito pubblico fino a questo momento non ne hanno voluto parlare né sentire. Allora ci siamo detti, oggi iniziamo qualche giorno dedicato ai contribuenti italiani, qualunque cosa voi pensiate su il POS non obbligatorio, il 26%, telefonate pure, e oggi dedichiamo la nostra trasmissione, non so se basti oggi, a un funzionario pentito dopo 30 anni di servitore dello Stato nell'apparato tributario dello Stato, nell'Agenzia delle Entrate, che stufo, stanco e pur totalmente in linea con i diritti e l'ordinamento, non perché sia un anarchico, perché non si serve per 30 anni lo Stato, non si vincono 10 concorsi come ha fatto lui se si è un anarchico, capisce? Capite? Proprio nel nome della legge e dei diritti ha deciso di dimettersi, si accontenta di una pensione che è elevata, per carità, rispetto alla mia della pensione italiana, ma è passato dall'altra parte della barricata, assiste i contribuenti, le assiste legge alla mano e diritti costituzionali, purtroppo calpestati dallo stesso Stato nel nostro ordinamento, e vale davvero la pena di sentire che cosa racconta. E con noi Luciano Di Segna, lo ringrazio per questa sua scelta di mettere in pubblico i motivi per cui la prassi che ha visto e che gli è stato chiesto di praticare con i contribuenti le considera delle cose empie. Buon pomeriggio Luciano Di Segna. Sì, buongiorno Giannino, si è dimenticato di precisare che, a dire il vero, il 95% del mio lavoro è gratuito. Esatto. Beh, ma questo si fa presto a dire fare consulenza, ma è questo purtroppo il problema. Sono salito da mattina alla sera da poveri disgraziati che sono alle prese con numeri da paura, che dimostrano che l'Agenzia delle Entrate sta distruggendo il tessuto imprenditoriale del paese. Cioè, ci sono numeri pazzeschi, abbiamo 60-70 miliardi di maggiori imposte, interessi, sanzioni accertate ogni anno, dico ogni anno, in prevalenza a carico delle piccole e medie imprese, no? Abbiamo risultati della lotta all'evasione. Perché a 70 miliardi ci si arriva più o meno con un 25, 28, 30 miliardi di maggiori imposte contestate, su cui poi si caricano le sanzioni, gli interessi e così via. Esatto, bravo, sì. Siamo a una trentina di miliardi circa, che poi alla fine dietro 60-70 miliardi complessivi, a fronte di quali lo Stato, parlo della lotta all'evasione, incassa al massimo 2 miliardi. Ecco, quindi infatti ci sono 5-600 miliardi, ma si passano cose, sono dati abbastanza noti, 5-600 miliardi che Equitalia non riesce a riscuotere. Aspetti. Ebbene, però, perché quando la gente comune, che non ha esperienza ovviamente di amministrazione tributaria e contenzioso, legge quei 600 miliardi, si scandalizza perché pensa, ma insomma questo Stato è proprio incapace, ci chiede di aumentare le tasse e poi ha 600 miliardi che non incassa. Forse varrebbe la pena di spiegare che la parte straordinariamente più elevata di quei 600 miliardi in realtà è frutto di una modalità incivile di procedere, no? Ah beh, certo, sì, quello di sparare numeri da paura, sparare milioni di euro con la speranza di raccattare 100-200 mila euro. Attenzione, perché poi qua c'è il problema dei costi di difesa. Io ho qua un articolo del Sole 24 Ore del novembre dell'anno scorso che parla di costo di difesa che va dal 10-20% del valore dell'accertato. Sostanzialmente un accertamento da 100.000 euro costa 10-20 mila euro per difendersi, qualcuno dice addirittura molti di più. Dobbiamo considerare giornate di lavoro perse, malattie, suicidi, famiglie cristiane. Cioè, se fosse vero quel 10%, che nei casi di grande contenzioso è vero e magari anche superiore, tanto per dare un'idea di chi sta a casa, attenti che dei 30 miliardi contestati che diventano 70 con le sanzioni, significa che per farsi assistere il 10% sono 7 miliardi di oneri l'anno per farsi assistere di fronte a pretese dello Stato. Senza tenere conto di giornate, mesi, settimane, mesi di lavoro buttati via, malattie, suicidi, ce ne sono contati 400 negli ultimi mesi, non so chi. Cioè, abbiamo sostanzialmente i costi di difesa dei contribuenti che superano di gran lunga i risultati della lotta all'evasione. Attenzione Giannino, qua è in corso un trasferimento di mastodontiche risorse dall'economia reale, parlo di quella delle imprese, all'economia virtuale, io la chiamo così, quella del mondo professionale, no? Beh, sappiamo benissimo che il mondo professionale non è che impieghi queste risorse in beni strumentali o in occupazione, magari è più portato a impiegarle, che ne so, qualcuno parlo, naturalmente, non sto parlando mica della maggioranza, ma li impiega in orologi d'oro per sé o per chissà chi, non so se mi spiego. Ecco, tra l'altro abbiamo 700.000 accertamenti ogni anno. Mi ha fatto notare Giancarlo Barra, che lei sicuramente conosce, di Repubblica, no? Ne avessero fatto qualcuno di quei 700.000, l'avessero fatto a carico del MOSE o dell'Expo, dico neanche uno. Il problema è che l'Agenzia delle Entrate fa questi mastodontici accertamenti dimenticandosi che anche in materia fiscale si potrebbe, volendo, applicare il principio del dubbio pro reo. cioè dire facciamo gli accertamenti solo se siamo sicuri dell'evasione, no? Allora in questo caso i contribuenti non sentirebbero il bisogno di andarsi di ricorrere a grossi studi professionali per difendersi e spendere quelle somme di cui parlavamo prima. Attenzione, il mio dubbio qual è? Che tutta, perché dice uno pensa, ma come? L'Agenzia delle Entrate sta segando il ramo dove è seduta, no? Dice, il problema mio è che credo che tutto questo rientri in una ben precisa strategia per far fuori milioni di imprenditori, no? Perché secondo lei, che interesse avrebbero? Aspetti, la risposta a questa domanda me la dà dopo i 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo con Luciano Di Segna, funzionario per 30 anni dell'apparato tributario, che adesso, come sentite, parla di ciò per cui ha appeso la divisa pubblica al chiodo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16.47, prime 43 secondi, con Luciano Di Segna, che oggi è tributarista, è un ex dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Qualche ascoltatore, lo sapevo, come sempre, quando si parla in maniera un po' trasciante questi argomenti, difende lo Stato, dice che io parlo a vanvera, che dovrei stare muto, zitto, mi dovrebbero cacciare, eccetera, eccetera. Non decido io di stare qua e quindi finché ci starò parlerò di quello che secondo me è conclamato, evidente, cioè gli articoli 23 e 53 della Costituzione, quelli che parlano di fisco, completamente calpestati come tassazioni retroattive, modalità di accertamento, l'obbligo del 30% del contestato per andare in contenzioso da mettere sul tavolo. Se poi voi siete insensibili a questo, tenetevi questo stato fascista per quello che mi riguarda, perché nelle tasse io sono convinto che sia peggio di quello della buonanima, peggio, capite? Peggio, solo che molti sono convinti che dirlo sia fare un favore agli evasori, neanche per idea, neanche per idea. Se davvero volessimo, per esempio, per quanto riguarda il POS, avere una modalità di potenziamento delle verifiche, allora la comunicazione telematica degli incassi in qualunque forma avvenuta è mille volte più rapida e meno onerosa per chi la deve fare, perché si fa con un software da qualunque computer, di questo arzigugolo non obbligatorio che entra in vigore oggi e che spacca i contribuenti, tanto per dirne una. Senta, alcuni ascoltatori, caro Luciano, le chiedono, ma non è che lei ha aspettato il momento per andare in pensione per scoprire poi dopo che lo Stato era cattivo? Da lì dentro che cosa faceva? Ma io dal di dentro cercavo di fare gli accertamenti secondo quello che le dicevo prima, applicando il principio del in dubio pro reo, cioè ho ordinato ai miei collaboratori, quando sono stato direttore, di accertare solo se erano sicuri non al 100%, ma al 101%. In questo modo i miei uffici hanno ridotto notevolmente il contenzioso, le imprese della zona non hanno affrontato rischi di spese da tributaristi e nello stesso tempo, guarda caso, e vorrei che proprio l'Agenzia delle Entrate pubblicasse questi dati che le sto dando, no? Gli uffici da me diretti erano in testa negli incassi della lotta all'evasione. Capisce? Allora, tornando a quanto le dicevo prima. Però perché lei diceva prima c'è un vero e proprio disegno per farle chiudere le piccole imprese? Guardi Giannino, lei ha usato un'espressione adesso fascista che secondo me la dice lunga su quello che sta accadendo in giro. È in corso un vero e proprio regime, lei sa meglio di me che i regimi e i poteri forti vedono come fumo negli occhi la libertà di opinione, come quella di Giannino per esempio, no? E i principali portatori della libertà di opinione chi sono? Sono le persone economicamente libere, sono i piccoli e medi imprenditori, i dipendenti privati e pubblici non hanno il coraggio di alzare la testa, il piccolo imprenditore ce l'ha sto coraggio, però attenzione, l'imprenditore deve avere quattro soldi in tasca, c'è anche un proverbio latino, no? Homo sine pecunia est mago mortis, oppure primum vivere deinde filosofare, cioè la gente ha bisogno di avere quattro soldi in tasca, allora si ribella, allora lo Stato, il regime, come lo chiamerei fascista, deve necessariamente sopprimerli, affamarli, questa gente qua, in tutti i modi, ridurne il numero, solo in questo modo si toglie dai piedi della gente che protesta. Secondo me c'è un disegno ben preciso. Che l'Agenzia delle Entrate sia consapevole o meno di questo non lo so. Adesso è arrivata, per carità, è arrivata una persona che io ritengo, mi pare di conoscere anche molto per bene, che è la signora Orlandi, molto per bene, però mi fa pensare un po' a Papa Francesco che si ritrova tra i piedi ancora i cardinali di prima e che ha non poche difficoltà. E però per quello che mi riguarda, come dobbiamo sperare che Papa Francesco usi la ramazza e pulisca, io spero che la Orlandi davvero, quando dice fine dei blitz, utilizziamo meglio tutto tutto l'apparato di banche dati che abbiamo a disposizione per fare le verifiche dove sappiamo che si concentra di più l'evasione e non è la maniera più facile per portare a casa più incentivi ai funzionari, cioè dove si sa che c'è il denaro, come sta appena dicendo appunto anche Luciano Di Segni. Speriamo che lo faccia davvero, perché effettivamente secondo me altrimenti siamo morti. Ma lei riesce, dando consigli a chi va in contenzioso, riesce a farli vincere? Finora ci sono riuscito abbastanza, però attenzione, guardi che in contenzioso poi abbiamo anche giudici tributari che sono secondo me i migliori dal punto di vista della giustizia italiana, perché li ho trovati quelli più equilibrati di tutti, però attenzione, abbiamo a che fare con funzionari dello Stato, con servitori dello Stato, i giudici tributari, che sarebbero anche un po' in conflitto di interessi, dico bene? Perché di fronte a un accertamento, non so, di 1 milione di euro, e loro si chiedono, accogliamo o respingiamo? È chiaro che c'è anche l'idea, ma come, sti soldi li perdo anch'io? Non so se rendo. Certo. E loro, che si dimostrano in tutti i sensi giusti e anche servitori dello Stato, si comportano al meglio e fanno vincere il contribuente, prenda nota di questo dato, Giannino, fanno vincere il contribuente il 50% dei ricorsi. Il 50% dei ricorsi, e ciò significa che il 50% degli accertamenti sono toppati completamente, sbagliati completamente, per non parlare degli altri 50% che sono fatti, che sono elevati a carico soprattutto di piccole e medie imprese, cioè dei soggetti sbagliati. Abbiamo il 97-98% degli accertamenti che sono in questo modo sbagliati. Allora, nel frattempo c'è una vera rivolta di una parte facinorosa del pubblico che naturalmente dice che il sole mi deve cacciare, che sono un evasore, lasciamo perdere. Poi ci sono anche altri, per esempio c'è un tassista, Stefano da Firenze, che dice: io faccio tassista, ma spero che un giorno mi mettano l'obbligo dello scontrino, così sarà tutto certificato e non subirò più lo squadrismo fiscale di un accertamento presuntivo che calpesta la congruità e la coerenza. E naturalmente un commercialista che mi dice di pagare di più di quanto ho davvero fatto per evitare che lo Stato ci venga addosso. Qual è il suo commento di fronte alle parole di Stefano, Luciano Di Segni? Allora, Stefano rappresenta la categoria di lavoratori che si fanno 15-16 ore al giorno, li vogliamo lasciare in pace questa gente, questi lavoratori? Il gran parte degli accertamenti sono fatti a piccole e medie imprese, ma fateli ai grossi gruppi, fateli a un certo mondo professionale. Sto parlando di certi medici che per una visita di 10 minuti ti prendono 200-300 euro, fateli a loro, non li fanno a loro, perché a loro va bene la pesca a scandaglio, va bene colpire le piccole imprese perché sanno che raccattano soldi da lì, a loro non gliene frega di meno se poi l'economia va in malora, e magari gli fa anche piacere proprio per il discorso che le facevo prima, perché allo Stato ha interesse liberarsi di milioni di teste libere, e questa è la verità, ed è così che l'ho vista, ed è per questo che a un certo punto ho detto basta, mi metto dalla parte del contribuente. Senta, lei ci crede al fatto che per esempio una riforma degli incentivi per i funzionari, esattamente anche collegati all'accertato ma anche al contenzioso, se si esclude il contenzioso potrebbero portare a quel tipo di accertamenti che lei come direttore faceva, ma il più delle volte vediamo che invece non si fa perché si spara nel mucchio, quindi molto contenzioso, bassa percentuale di portato a casa, però su quel contenzioso poi si sparano le cifre che portano consenso allo Stato e che fanno pensare a metà, cioè a tutti i dipendenti, che gli altri sono enormi evasori. Non sarebbe un primo passo positivo cambiare la struttura degli incentivi ai funzionari? Sarebbe sicuramente un primo passo, perché dare quel tipo di incentivi là è come, che ne so, dire, non so, pagare i giudici in base al numero di anni di prigione che vengono comminati, non lo so, a quest'ora mezza Italia sarebbe in galera se venissero pagati, oppure non so, pagare i carabinieri in base al numero di feriti o di malviventi uccisi, sarebbe una sparatoria tutti i giorni, capisce? È contro la Costituzione, è contro il principio di adeguamento previsto dall'articolo 97 della Costituzione. È anni che lo dico ed è anni che nessuno ci ascolta su questo fronte. Chiaramente non basterebbe, perché bisogna anche un po' cambiare la mentalità, cercare di capire che il piccolo imprenditore quei 4 soldi che riesce a mettersi lì investe, cercare di capire che gran parte dell'evasione, attenzione, gran parte dell'evasione è per far quadrare i conti. Aspetti, gatto toccato un punto su questo che mi fa esplodere definitivamente. C'è un punto, ma lo richiameremo, nel quale Di Segna dice che bisogna che lo Stato tassi lo Stato inversamente un reddito, inversamente al rischio di perderlo. Su questo torneremo in un'altra trasmissione, ma domani ci occupiamo del POS. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.